stato anche il tempo in cui delle attrici del cinema ci si innamorava, incarnavano tutte le virtù terrene e si guadagnavano, per analogia, l'appellativo di dive, le si sognava perfino. Angelina Jolie, o pronuncio la francese, è l'interprete di due film che giungono più o meno contemporaneamente sui nostri schermi. Uno si chiama Ragazze interrotte e l'altro si chiama Il collezionista di ossa. Forse il secondo spiega il perché del primo. Il nome e il cognome della giovane attrice, figlia d'arte peraltro, non sembrano Angelina Jolie, non sembrano averla forgiata all'insegna del vezzeggiativo. Allora, racconta di essersi presentata al suo primo matrimonio, che è durato 19 mesi, con una maglietta sulla quale con il proprio sangue aveva scritto il nome del marito. Costui magari lì per lì avrà apprezzato, ma poi ci deve aver pensato su, come deve essersi preoccupato non poco del fatto che la sua mogliettina allevasse serpenti e lucertole, che fosse pervasa dalla mistica della cicatrice, come certi personaggi di Cronenberg in Crash, che fra una cicatrice e l'altra facessero capolino 7 tatuaggi 7, che la sua massima ambizione sembra fosse quella di aprire un'agenzia di pompe funebri e che infine collezionasse pugnali e armi varie. Angelina, insomma, dando fin troppo credito alle possibilità metaforiche del codice della strada, dice di prediligere il lato sinistro dell'esistenza. Si sbandiera come diva estrema, o accetta di farsi sbandierare così secondo i piani di chi provvede a lei e alla sua storia, perché producendo denaro il successo le arrida. Sia come sia, nel dubbio, incontrandola, meglio cambiare marciapiede. Angelina è americana, abita dunque il medesimo grande paese di quel bambino di 7 anni che il giorno prima litiga con la sua compagna di scuola, che di anni ne aveva 6, e il giorno dopo torna a scuola con una pistola e l'ammazza davanti a tutti. L'arma da fuoco là è un utensile domestico e le istruzioni per l'uso non vengono fatte mancare a nessuno. Se uno non sapesse ancora leggere, ci pensano la televisione, il cinema e lo Star System.